24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Si può mettere a repentaglio la continuità di questo governo impegnato in un programma di attività ben definito senza offrire pesanti ragioni ai più malevoli e anche interessati critici e detrattori del nostro paese pronti a proclamare l'ingovernabilità e inaffidabilità dell'Italia? I contraccolpi a nostro danno nelle relazioni internazionali e nei mercati finanziari si vedrebbero subito e potrebbero risultare irrecuperabili. Avete capito, cari italiani, chi tocca il governo muore. Zac! Via la testa, ghigliottina. Si può mai toccare il governo per qualsiasi motivo? No. Così parlò Giorgio Napolitano. Buongiorno, questo è 24 mattino e si chiude questa settimana alle 6:32 minuti. Chi c'è qua? Alessandro Longoni, eccolo lì in redazione, il nostro Carmelo Laurigi. Sì, non ce la contrarrò fino al 3. Milan, sei proprio un coglione. Ecco. Ma è possibile che sei un pirla così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, dicevo che c'è Carmelo Lauricella in regia, che saluto, ringrazio, mi ricorda sempre che il nostro ascoltatore ci guarda dall'alto, ci saluta. Voglio salutare anche Vladimir Luxuria, buongiorno, ben svegliata alle 6:32. Buongiorno. Oh, che voce squillante, meno male. Ho detto dov'è andata. Eccoci qua. Voglio salutare anche Paolo Del Debbio, buongiorno Del Debbio. Caro Milan. Chi tocca muore, chi tocca muore, chi tocca... dovrebbero metterlo come nei fili dei tralicci, no? Chi tocca il governo muore. Non è chi tocca muore, è ciò che tocca il governo che muore. Ah, ecco. Da dove ha messo mano per ora, non è che è andata benissimo. È vero, è vero. Quindi è il contrario, si deve essere sbagliato Napolitano. Ecco, che c'aveva con la ghigliottina? No, la ghigliottina può anche essere un ottimo rimedio contro la ricrescita della barba, quindi ecco. Perfetto. Zacca via. Vabbè, apriamo il nostro Parlamento. Oggi il Parlamento che vedrà il Parlamento. Eccola lì. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Tra l'altro oggi Nicole Minetti mi pare che arrivi un giudizio, non so di quale processo, del debito, di quale processo, di che processo arriva, c'è un giudizio oggi, non lo so, su Nicole Minetti, ne sa qualcosa o no? Che io? Sì, No, non la seguo così direttamente da presso. No, diciamo, vabbè, è cronaca giudiziaria, voglio dire. Sì, cioè. No, ma non me ne sono occupato. Ecco. Ah, ecco. Allora, e cosa dobbiamo dire di quello? Oggi il manifesto, mi ha subito colpito il manifesto, ogni tanto fa, sono tornati quei titoli che hanno reso celebre il manifesto, cioè Napolitano, Napolitanistan. Siamo in Napolitanistan. Grande, cazzo. Oggi tutti i giornali titolano così, Vladimir Luxuria, che dobbiamo dire? Non so, i titoli sono Renzi si mette a cuccia sul giornale, oppure ecco qua, non fate cadere il governo, il Corriere, il PD salva Alfano al governo, o il Fatto Quotidiano, Re Giorgio dagli ordini a Parlamento, PD e stampa. Così. Ma che sta succedendo? Vladimir Luxuria, è davvero così? Vede un napoletano che dà ordine napoletano. A tutti. Napolitano, il direttore è napoletano, io ce l'ho sempre in testa. Io mi sveglio e penso sempre al mio direttore, il mio primo pensiero, e quindi napoletano. Vabbè. No, a parte che hanno tolto un ministero, quello delle pari opportunità, perché la IDEM non ha pagato qualcosa tipo meno di 1.000 euro di cose di IMU, e poi dopo questa figura veramente incredibile di melma internazionale, siamo sulle pagine di tutti i giornali per questa pagliacciata, ancora una volta dopo i Marò, ancora una volta si manda via una donna con la figlia, con tutta la violenza psicologica che è stata fatta a questa donna e a questa bambina di 6 anni, e poi adesso invece si dice ridatecela indietro. E rimane tutto come prima, cioè Alfano rimane lì, vengono puniti altri capi del Viminale della polizia, Si dice va bene tutto, il debito pubblico ha raggiunto il record, va bene tutto purché non si tocchi il governo. Non si deve toccare il governo. E se no, dice, quel debito pubblico peggiora, e se no peggiorano gli scenari internazionali. Ma se no peggiora lo stesso, questo dovrebbero spiegare, perché il punto vero è che uno dice, se va via sto governo in Europa succede un casino, sì. E cioè l'Europa non si fida di nessun altro, i mercati ci mandano a carte 48, si torna su con lo spread, cioè grosso modo Milan dicono sì, questa, roba, sì, dico no, questa roba qua. È vera fino a un certo punto, perché non è che col governo le cose stanno andando meglio. Come no? Che questo governo con tutto ha... quello che hanno fatto? Oppure che questo governo ha preso delle decisioni così importanti che, diciamo così, dà dei segnali della direzione verso cui vuole andare. Perché ieri è stato deciso che si deciderà entro il 31 agosto, ancora una volta, se verranno aumentate l'IVA. Esatto. E io l'ho detto tutti in autunno, questa anche prima, il 31 agosto è ben prima dell'autunno, tutto il resto in autunno. Allora, vediamo, hanno rimandato al 31 agosto, intanto mancano, se non sbaglio, 77 giorni all'aumento dell'IVA e dunque vedremo cosa fanno. In autunno, fanno tutti in autunno, oggi hanno annunciato per esempio tra poco la seconda parte, riparte la spending review, mi sono perso la prima partenza, non lo so, tu, Vladimir Luxuria, la prima partenza della spending review l'hai vista, perché adesso annunciano riparte la spending review? Ma io dico sempre che l'incertezza è peggio della stangata, cioè se io dovessi sapere che se io so e mi metto l'anima in pace che devo pagare un'IVA più alta, che devo pagare l'IMU, posso farmi due conti. C'è un'incertezza incredibile, alcuni non sanno più cosa fare, non hanno possibilità di fare una previsione di bilancio, intanto stanno già cominciando a pensare di tagliare tutto quello che è i servizi che riguardano gli anziani, i servizi addirittura che riguardano i pulmini che devono andare a prendere i bambini per andare a scuola. Io non lo so, che cosa deve fare questo governo per mandarlo via? No, ma infatti, ma l'incertezza è in tutto, poi dopo gli investitori esteri non arrivano, eccetera. Ecco, per esempio questa anche ho visto, giuro, l'ho letta su un giornale, forse Repubblica, ora, adesso che Letta respira, ci sarà l'annuncio delle dismissioni del patrimonio pubblico. Per la verità questo annuncio del debito è diventato un 30 anni. C'è stata anche la... Commissione, come si chiama? Reviglio Junior, vero? Quella che aveva fatto, se non sbaglio, Tremonti, no? Ah, c'era una commissione in Italia, era quella strano. Lì che diceva dei 2.000 miliardi, però impossibili, invece 600 miliardi si potevano praticamente dismettere in poco tempo, d'accordo? Questo era quello che veniva detto. E siccome è quello il nodo, perché se te non dismetti... Ma è da 30 anni che dicono, cioè a me fa ridere, tra poco l'annuncio, ma l'annuncio c'è da 30 anni, è lì, svendesi patrimonio pubblico, però poi noi non l'abbiamo mai fatto. Però questo. Lei a si riferisce a quegli annuncini sui giornali che No, vendesi sulle caserme. Fate le letture che non vanno bene. Vabbè, che dobbiamo fare? Mi converto adesso. Chiamo Napolitano. Vladimir Luxuria. Ecco, va bene. Chiamo Napolitano e mi faccio rimettere in riga subito. Fa degli errori stamattina. Lo so. La stanchezza. La stanchezza. Tra una settimana vado in ferie, infatti. Io ci vado oggi. Ah, eccolo lì. Quindi, infatti, finisco. Stasera, tutti, ultima puntata di Quinta Colonna. Ma come? Va in ferie prima del 30 luglio. E com'è possibile? Senta, Milan, poi ne parliamo a quattro occhi. Vladimir è impazzito, va prima del 30 luglio. Sono l'unica che lavorerà tutta l'estate perché ho preso la direzione artistica dei Village quest'estate. Complimenti. Però Vladimir Luxuria, di qualcosa del debito che se ne va via prima del 30 luglio, cioè non farà parte dell'armata, dell'esercito di Silvio, pronto subito dopo il 30 luglio, qualunque cosa accada, come dire, a mobilitarsi. Vengo da lei dopo il 30 luglio. Va bene. Mi collego con lei e con Vladimir Luxuria dalla direzione artistica. Io sono in ferie. Io avevo già programmato, sapevo già tutto e ho programmato le ferie da gennaio, dal 29 luglio. Vado in Kazakistan quest'anno, ho comprato la mappa. Sì. Vado. Vladimir, sei mai stata in Kazakistan? No, sai. No, grazie. Non c'è. Perché, non ho capito perché. Che male c'ha il Kazakistan? No. Le dittature non è che mi piacciono tantissimo. Vabbè, ma adesso anche sta cosa è la dittatura. Sono tutti, ci sono le foto di tutti, Napolitano, Prodi, Berlusconi. Ah, ecco, si sono inventati adesso. C'è il Bunga Bunga Kazako. Sai, Vladimir, che c'è il Bunga Bunga Kazako? C'è un ex deputato di Futura Libertà che ha raccontato ieri che Berlusconi è andato ad Astana, la capitale, e c'erano 30 donne per lui. Così quello porta il pigiama, gli ha detto. Sì, porta il pigiama, gli ha detto Nazarbayev. Questo avrebbe raccontato Berlusconi a una di quelle cene in cui racconta. E c'erano 30 donne per lui, solo che lui ha detto: no, ma io non mi si consente la. Ma che se c'erano 30 donne, che se ne faceva del pigiama? Oggi, tra l'altro, il Fatto rettifica. Quindi c'è una presa di posizione, dice: ci scusiamo, non erano 30 donne, ma 12, secondo un altro testimone. Non doveva portare il pigiama, ma le ciabatte. Ecco, esatto. Vladimir Luxuria, è verosimile il Bunga Bunga Kazako? Ma non lo so, io insomma, tanto con la buona salute, uno con 30 donne, devo dire, insomma, auguri, buona salute, ma non mi interessa, non mi è interessato, come potete, i costumi sessuali, quello che non è questo il problema, è che il problema sarebbe se uno cambia posizione e diventa più amichevole nei confronti di un capo dello Stato, di un dittatore, in base alle donne che ma dà, questo sì, ecco, sì, ma però ancora ripeto, una dacia di Putin o una dacia del dittatore che non mi ricordo manco come si chiama, Nazarbayev. Sì, ma lì c'è, cioè, il dittatore qua del debbe, sono le foto di tutti, che a parte che c'è il petrolio, il gas, che facciamo, cioè rompiamo, c'è l'ENI, rompiamo tutti i rapporti con allora, Kazakistan. E poi ci sono le foto di tutti, tocca parlare seriamente ancora, diciamo 15 secondi. Sì. Allora, la questione è molto semplice. È di una questione come i rapporti internazionali in questo paese qui e dei diritti umani di tutto. Te ne interessi una volta ogni 12 o 13 mesi, d'accordo? Poi scopri, guarda un po', c'era andato anche questo, guarda un po', c'era andato anche quell'altro. Perché? Perché nel frattempo che si occupano tutti di cose di minchiate, come si dice, ecco, e nel frattempo succedono le cose, ci sono i rapporti internazionali, lì non so se sanno, c'è una regione come la Lombardia dove c'è un giacimento l'ENI, territorio grande come la Lombardia, ecco. Quindi ti immagini che importanza ha, no? No, ma è chiaro, E allora è inutile che poi dopo per 10 o 30 donne di malaffare, che ne so io, che ho di buon affare, non lo so perché fanno, non me ne fotte nulla, facciamo tutto un ragionamento. Capito, Vladimir Luxuria, questa è la realpolitik. Cosa dobbiamo fare? Rovinare tutti i rapporti? No, non dico rovinarli, ma bisogna parlarne, allora bisogna metterlo, come si diceva una volta, nella giusta prospettiva, va messo a tema, capito? A tema. No, sarebbe interessante. Si fa le verginelle due volte l'anno e poi tutto il resto dell'anno ce ne fotte di nessuno. Che c'è? A parte che non sappiamo mai se queste 30 donne sono esistite o meno. Ma sì, ma infatti, ma le 30 donne non hanno di colore. Non anche fregare di meno. Il problema è che i diritti umani vengono sempre schiacciati rispetto ai diritti economici, purtroppo direi. Ci sono tante relazioni, io penso anche con l'Arabia Saudita non è una. Ma con tutti, Vladimir, con la Cina, che dovremmo fare? Dovremmo vivere nel nostro orticello, non avere rapporti. Sarebbe bello poter, come posso dire, essere talmente forti da poter rispettare anche certe dittature o certi posti dove i diritti umani vengono schiacciati, dicendo: se voi volete degli affari con noi, se volete concludere dei contratti con noi, dovete rivedere certi vostri diritti umani. Purtroppo così non è. Non si l'economia fa, non è si più fa. Forte, purtroppo, del rispetto sì, dei diritti tanto, umani. Tanto prima di andare al traffico, uno mi scrive via SMS: ci pensi, 30 donne, che meraviglia! Si è svegliato alle 6:45 questo ascoltatore. Ah, ci pensi, Milan, 30 donne, no? Si vede in questo harem. Vabbè, andiamo al traffico, parentiamo con la segreteria telefonica. 24 mattino. Ma io mi trovo veramente all'ombra sul Carso triestino e mi è venuta in mente un'altra idea. Se arrivasse una forte, fortissima bora fin giù a Roma e spazzasse via tutti i nostri politici fino al, nel mare davanti a Ostia, arriverebbero in Marocco, in Algeria. Anzi, ancora meglio. A Ostia li imbarchiamo su dei barconi e arrivano che barconi fino in Marocco. In Algeria, chissà come li accoglierebbero da quella parte. Ma buongiorno Milan, le pensate gli atti della Boldrini, che penso e credo farebbe meglio andare in terapia. Berlusca, aiutaci tu che te ne intendi, dammi sacco e a mi smondo tutto su Mediaset subito, subito. Ciao Milan. Ma siete proprio una manica di pecoroni, pecore. Caro dottor Milan, nella squallida vicenda Calderoli, la signora Chieng ha dato una lezione di stile e di nobiltà d'animo a tutti i cafoni, a tutti i buzzurri d'Italia. Lasciamo in pace gli animali, innocenti, incolpevoli creature. Piuttosto parliamo seriamente. Quelle della Lega non sono bestie, sono delinquenti. Sia in canottiera che in doppia petto, sempre delinquenti. Signor Milan, gli italiani si sono rotti il cazzo proprio per sentire e dissentire sul fatto della cazza cattana, là, della, di quella signora, della figlia che è stata portata in patria. Adesso devo ringraziare. Invece qua stiamo a fare tutta una caciara internazionale, ma è una stronzata grossa. La signora se ne stia a casa sua, che c'è di male che l'abbiamo accompagnata a braccetto? Pare che abbia presentato qualche documento falso in giro, quindi la signora se ne torni a casa sua, si facesse fare i documenti buoni, nuovi, dopodiché può anche ritornare, se è lecito che ella ritorni in Italia. Vladimir, hai capito? La Kazakattana, la Kazakattana, questa, vabbè, la gente, ognuno la pensa a modo suo. Un po' di geografia, finora nessuno sapeva neanche che esistesse, sì, il Kazakistan. Allora, l'annuncio è questo, su Mediaset, dunque, ci sarà Miss Italia condotto da Paolo Del Debbio e questo è il prossimo acquisto, sì. Insomma, di... l'ha sì. Detto l'ascoltatore, ma sta roba della Boldrini, ma voi l'avete capita bene che c'ha la Boldrini, questa associazione, l'immagine della donna? Vladimir, qui voglio sapere un parere. No, come allora, intanto non mi aspettavo che la Boldrini si esprimesse su Miss Italia, sinceramente. Sì. E ho visto che invece ha applaudito la cancellazione di Miss Italia su Rai 1, mentre non ho sentito una parolina sulla cancellazione del Ministero delle Pari Opportunità. Ancora, ma è stato smembrato. Smembrato, l'hanno tolto e basta. La verità, gli altri ministeri hanno già tanto da fare, per cui è stato preso sta scusa dell'IMU, hanno tolto le pari opportunità e quindi di cosa stiamo parlando? E fumo negli occhi per non vedere l'arrosto bruciato. Ci sono problemi enormi in Italia sulle pari opportunità, sull'omofobia, sulla violenza di genere, ogni 3 giorni una donna viene ammazzata e la colpa di cos'è? Di Miss Italia, che tra l'altro viene vista più da un pubblico femminile. Beh, ma non è che ha dato la colpa, cioè non è che ha fatto questa associazione, ha detto l'immagine della donna in TV, la donna seminuda, le donne dal bunga al burka, non lo so, io non è che sono tanto... è un concorso dal quale è uscito insomma Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Anna Valle, insomma non se è... cominciamo con la censura, veramente attenzione, se cominciamo con la censura poi ognuno troverà anche la sua giustificazione se censurare quel programma piuttosto che quell'altro, non lo so, un po' vedremo, cosa vedremo, la TV pubblica deve essere TV di intrattenimento e di informazione. Sì, sì. Non lo so, io non sono piaciuta, d'accordo su un servizio pubblico così. Ah, ma è chiaro, del debito non le è piaciuta Vladimir Luxor questa... Ma si occupi di cose serie, faccia funzionare la Camera. Tutte le volte che fa una fuoriuscita fa del casino sta Presidente qua. Cioè, una volta dice il carnefice, la vittima si trasforma in carnefice. Sì, allora, sì. Insomma, tipo per esempio non so, l'annuncio si lavorerà alla Camera dal lunedì al venerdì, che non l'abbiamo ancora visto, ecco, oppure si taglieranno le spese della Camera. L'altro giorno siamo andati a vedere un centro sportivo che c'è sull'acqua acetosa, che costa una baracca i soldi, ci hanno detto che non ci va mai nessuno nel Parlamento. Chiuda quello, si occupi di quelle robe lì. La donna nuda, sono donne in costume da bagno, sì, ma che? Ma neanche... No, ce l'aveva, ce l'aveva. No, poi ecco, questo mi ha colpito. Ma neanche il compianto, cioè il defunto Scalfaro quando te uno schiaffo a quella là, ma insomma, ma... San Milan, io non voglio tornare ai tempi in cui si censurava l'ombelico della Carrà e le gambe della Kessler. Io voglio difendere Miss Italia, anche se è un concorso che non è una trasmissione che io vedo, ed è un concorso anche un po' discriminatorio, perché per esempio persino le donne operate, quelle che si sono operate, che sono diventate donne riconosciute, non possono concorrere a Miss Italia. Tant'è che quando mi hanno chiesto di poter fare Miss Italia al Gay Village, non sto scherzando, di fare attenzione, una serata di selezione al Gay Village, io ho detto di no. Perché non potevano agli partecipare. Agli organizzatori di Miss Italia, non perché la donna, tutte queste stronzate qui, anche perché vabbè, noi facciamo anche altri concorsi come Mr. Gay, Miss Trans, non è questo il problema, ma perché ho detto non posso fare all'interno del Gay Village un concorso in cui se una persona che si è operata ed è riconosciuta donna dallo Stato e si può sposare civilmente non può concorrere a questo concorso, mi spiegate come lo spiego, diciamo così, alla mia comunità. E quindi no. Ho detto cambiate il regolamento, se no non si può. Vabbè, Mr. Gay e Miss Trans è del debito, questa al prossimo non possiamo perdercelo, però. Ma no, vada lei e poi me lo racconto. Ma perché? Perché vabbè, quando ci inviterà. Vabbè, ero, vado in vacanza, insomma. Per quello. Mi vuoi far fare qualche giorno sì, in vacanza? Sì. Ecco, del debbio potrebbe fare il giurato, però. Non vuole. Sono già lì. Non vuole, Vladimir, non vuole. Ma che non voglio, ma io faccio tutto, ma che me. Del debbio basta dire del debbio c'è da fare questo e lo fa. Vabbè, io mi devo fermare, vi ringrazio. Allora, del debbio, buona ultima puntata. Grazie. E buone vacanze. Poi il 30 luglio tutti qua, perché insomma bisogna. Vabbè, c'è una cosina lì il 30 luglio. Grazie Vladimir Luxuria. E allora ci sentiamo la prossima volta. È tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati. Siamo pronti a leggere i giornali, sono le 7:16 minuti. E poi di che parleremo oggi? Beh, di attualità politica, il giorno della fiducia, o meglio della mozione di sfiducia per il caso Kazako del ministro dell'interno Alfano al Senato. È abbastanza scontato ormai che la sfiducia non passerà e dunque tutto rimarrà così. Noi ne parleremo con Piero Stellino del Corriere della Sera, con il senatore renziano Marcucci, uno dei tre che ieri ha detto non ha votato in linea con il PD, anche se oggi immagino poi voterà la fiducia, si adeguerà, ma insomma il mal di pancia all'interno del Partito Democratico certamente è forte, come si scrive da giorni. E ieri ha parlato Giorgio Napolitano, però a dire non si tocca Letta. Parleremo di questo, e questo è il tema con cui aprono anche molti quotidiani che andiamo a sfogliare. In questo venerdì 19 luglio il Sole 24 Ore apre sulla giornata di borsa. BCE, Fed spingono i listini, nuovo record a Wall Street, questo è il titolo di prima pagina. E poi la vicenda Napolitano, che ha parlato e ha detto in sostanza non bisogna mettere in discussione il governo, è l'apertura per quasi tutti i quotidiani, il Corriere della Sera: non fate cadere il governo, Napolitano avverte i partiti, per Repubblica il PD salva Alfano e il governo. Il Fatto Quotidiano è esplicito: Re Giorgio dà gli ordini a Parlamento, PD e stampa. La stampa: Napolitano avanti con Letta. Il Messaggero: il Colle, nessuno stacchi la spina. L'Unità: Napolitano, Letta non si tocca. Il Manifesto, con questo efficace, straordinario gioco sulla vicenda kazaka, mette la foto di Napolitano col titolo Napolitanistan. Libero: c'è un disegno di Napolitano che sculaccia Renzi. Kazaki amari per Renzi. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Secolo XIX, il Colle e il PD salvano Alfano. Avvenire: Napolitano, la crisi c'è, folle aprirne un'altra. E il Giornale: Renzi si mette a cuccia dopo le minacce. Come vedete, l'attualità politica apre quasi tutti i giornali. Voglio partire però nel raccontare alcune storie di taglio diverso. Come sapete, all'inizio della rassegna stampa racconto altre cose. Beh, intanto la prima vicenda che riguarda il Vaticano viene portata in luce dall'Espresso. L'Espresso oggi titola in prima pagina La lobby gay, e anche Repubblica, con Paolo Rodari, che è il vaticanista di Repubblica, racconta quella che è la nuova ombra sullo IOR, ombre sul prelato voluto dal Papa. Il Vaticano frena, notizie inattendibili. Di che si tratta? Si tratta di Monsignor Ricca, che, secondo quanto racconta l'Espresso, citando varie testimonianze, quando è stato nunzio apostolico, cioè l'equivalente dell'ambasciatore del Vaticano in Uruguay, ebbe dei rapporti omosessuali con alcune persone. Paolo Rodari racconta: nell'occhio del ciclone, il riformatore dello IOR è stato chiamato dal Papa a fare, appunto, ad avere un ruolo molto importante all'interno della Banca Vaticana. Ieri il portavoce vaticano ha detto: quanto affermato su Monsignor Ricca non è attendibile. Ma la vicenda raccontata dall'Espresso è questa: dopo la nomina di Monsignor Ricca, il Papa è venuto a conoscenza da più fonti di trascorsi di Ricca a lui fin lì ignoti. Il buco nero nella storia di Ricca è il periodo trascorso all'annunziatura di Montevideo in Uruguay, dove arrivò nel 99. A Berna, da dove arrivava, dalla Svizzera, aveva stretto amicizia con un capitano dell'esercito svizzero, Patrick Ari. I due arrivarono in Uruguay insieme. Ricca chiese che al suo amico fossero dati un ruolo e un alloggio nell'annunziatura, cosa che avvenne. A detta dell'Espresso, l'intimità di rapporti tra Ricca e Ari era così scoperta da scandalizzare numerosi vescovi, preti e laici del piccolo paese sudamericano, non ultime le suore che accudivano l'annunziatura. Questa è l'accusa che viene rilanciata dall'Espresso in copertina, ma anche da Repubblica oggi: IOR, ombre sul prelato voluto dal Papa. Il Vaticano frena, notizie inattendibili. Ma la notizia certo potrebbe fare parlare. Ma io, l'avete sentito anche nel giornale radio, la vicenda ha dei contorni di giallo e dell'incredibile, di questa donna che avrebbe, bisogna usare il condizionale, bruciato dei capolavori di Picasso e Monet, buttandoli proprio nella stufa, perché voleva nascondere così le prove del fatto che il figlio le aveva rubati questi capolavori. Nella stufa capolavori di Picasso e Monet, una donna brucia le prove del furto fatto dal figlio. Così titola per esempio Repubblica, ma anche Libero dedica una pagina a questo: mamma, cosa hai fatto? Ho bruciato i capolavori per salvare mio figlio ladro. Ma c'è chi sospetta tra l'altro che sia la truffa del secolo, cioè sia una menzogna per in realtà far perdere le tracce di questi capolavori, come la testa di Arlecchino di Picasso, il ponte di Waterloo di Monet, donna che legge in bianco e giallo di Matisse, donna di fronte a una finestra aperta di Gauguin, donna dagli occhi chiusi di Lucian Freud. Insomma, erano dei capolavori che erano stati rubati un paio d'anni fa. E adesso questa donna, dopo che gli inquirenti erano andati sulle tracce, erano riusciti ad arrivare alla persona che aveva trafugato queste opere d'arte, questa donna ha detto: le ho bruciate perché era mio figlio, e quindi... E però questa donna, se è tutto provato, scrivono i giornali, rischia l'accusa di crimini contro l'umanità. Anche la stampa brucia capolavori di Picasso per salvare il figlio ladro. Erano stati rubati al museo di Rotterdam. Oggi Massimo Gramellini dedica a questo tema il suo tradizionale buongiorno in prima pagina. La mamma che bruciò Picasso, una donna di nome Olga Doganu, ha ammesso di aver arrostito 7 capolavori rubati a Rotterdam, tra cui la testa d'Arlecchino di Picasso, per cancellare le prove di colpevolezza del figlio. Una vicenda destinata a segnare una tappa importante nella storia del mammismo iperprotettivo. La libertà di un figlio, ancorché mascalzone, vale più o meno di un Picasso al forno? Di fronte a interrogativi di tale portata, lo scribacchino si fa rispettosamente da parte, concedendosi tutt'al più qualche riflessione laterale. Mamma Olga era consapevole dell'enormità artistica dell'infornata, oppure avrà pensato che quegli occhi sconnessi, quelle labbra contorte, fossero il parto di uno studente affetto da reumatismi alla mano? Quanto vale al borsino dei sentimenti offesi il dolore del direttore del museo, straziato dalla perdita di ben 7 figli, che ha denunciato la donna per crimini contro l'umanità? E se il mammismo della Doganu fungesse da schermo a una furbizia atavica, capace di confezionare una bugia depistante, perché in realtà il Picasso sano e salvo sta strabuzzando gli occhi nella villa del miliardario che ha commissionato il furto? A quest'ultima domanda potrebbe rispondere solo un segugio come Alfano, sempre che il miliardario non sia kazako, ben inteso. E vabbè, questo è il buongiorno di Gramellini, davvero mi ha molto colpito questa notizia, come mi ha colpito quest'altra notizia in negativo, davvero sconvolgente. Se vera e se confermata, la denuncia arriva in prima pagina di Libero. Sapete che a Milano c'è l'Expo e c'è una polemica a Milano perché devono sgomberare una zona dove ci sono dei Rom e c'è una diatriba su chi dovrebbe pagare loro per un accordo sui 50.000 euro a famiglia Rom. Perché c'è lo scandalo? Perché questi Rom si sono messi in una zona in maniera abusiva e adesso per espropriare i terreni li si paga, cioè si danno dei loro dei soldi per andare via. Ma come? Cioè, una cosa abusiva addirittura, siccome servono i terreni per l'Expo si deve pagare. Ma al di là di questo c'è una diatriba chi debba pagare, la regione, il comune. Pisapia smentisce che sia lui, la regione dice invece sì, l'accordo verbale tra i Rom e il comune era che pagassero il comune. Vabbè, ma comunque la denuncia di Libero, che raccoglie la denuncia di alcuni sindacalisti della polizia municipale, è questa. Tra le famiglie che verranno pagate c'è anche la famiglia del Rom che uccise il vigile Nicolò Savarino. Vi ricordate? Fuggendo in SUV, trascinandolo per diversi metri e travolgendolo, questo Rom che poi era fuggito, era stato pescato all'estero. Remi Nikolic, e poi è stato condannato. Racconta Libero, Pisapia paga la famiglia del Rom che uccise il vigile. C'è anche la famiglia di Remi Nikolic, racconta Dino Bondavalle in prima pagina. È il giovane Rom che a bordo di un SUV travolse e uccise l'agente di polizia locale Nicolò Savarino. E c'è anche la sua famiglia tra i beneficiari dei maxi indennizi dati ai nomadi per lasciare i terreni dell'area accanto alla quale sorgerà l'Expo 2015, un insediamento abusivo di Monte Bisbino, al confine tra i comuni di Milano e Baranzate. A sostenere questo, ecco perché insomma è tutto da confermare, il segretario lombardo del sindacato di polizia locale SULPM Daniele Vincini, la cui richiesta Comune, Regione, Infrastrutture Lombarde, cioè la società regionale che si sta occupando degli espropri, di fare chiarezza è stata rilanciata anche ieri dal quotidiano Repubblica. Durante le indagini condotte dai colleghi sul caso Savarino era emerso che al momento dell'omicidio in via Monte Bisbino abitavano i genitori di Remi Nikolic. E allora questa è la denuncia dei poliziotti, godranno di un indennizzo comunale pure i parenti del ragazzo che fuggendo travolse Nicolò Savarino. Io non lo so se sia vero, viene raccolta questa denuncia, voglio sperare che non sia vero e voglio credere che se fosse vero qualcuno dopo una denuncia verificata così dica no. Non perché le colpe dei figli debbano anche cadere sui familiari, vabbè sì, sempre il solito buonismo, eccetera, eccetera, eccetera, però poniamo un limite anche a un minimo di decenza, se fosse tutto vero e confermato, va bene? Ripartiamo dalla pubblicità del meteo e dopo ripartiamo dall'attualità politica. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccolo, eccolo, siamo qui pronti a leggere i giornali. Allora oggi è il giorno in cui credo dalle 8:30, comunque questa mattina, e noi ne parleremo dalle 8:15, ci sarà la votazione al Senato sulla mozione di sfiducia al ministro dell'Interno Alfano presentata da SEL e Movimento 5 Stelle. Ieri ha parlato Giorgio Napolitano, il capo dello Stato è stato chiaro, ha detto se cade Letta, contraccolpi irrecuperabili, ha chiamato tutti i partiti alla responsabilità di dire insomma non ci possiamo permettere in questo momento una crisi di governo. Napolitano blinda il Premier, titola così a pagina 5 il Sole 24 Ore, sotto il titolo principale che è appunto questo, se Letta cade, contraccolpi irrecuperabili, è un po' il racconto della giornata di Giorgio Napolitano. Lina Palmenini racconta forse mai come quest'anno il discorso di Napolitano al tradizionale appuntamento con la stampa parlamentare, la cosiddetta cerimonia del ventaglio, ha avuto una piega così fortemente economico-finanziaria, il messaggio politico è chiarissimo, cioè la blindatura del governo Letta. Ma le ragioni con cui il capo dello Stato la sostanzia seguono ancora il filo dell'emergenza, dei rischi sui mercati finanziari a cui il paese è esposto. E infatti Dino Pesole, nell'articolo che sta di appoggio all'articolo di cronaca sul Sole 24 Ore, racconta delle incognite economiche che fanno alzare la guardia, criticità delle condizioni economiche e sociali, cui si raggiunge la serietà delle incognite con cui l'intero paese dovrà misurarsi dai qui ai prossimi mesi. In diversi passaggi del suo intervento di ieri, Napolitano ha citato a sostegno delle sue tesi, analisi e cifre contenute nell'ultimo bollettino economico della Banca d'Italia. Dunque, meno 1,9% il PIL nel 2013, il 130% del rapporto debito-PIL, il 13% di tasse di disoccupazione nel 2014 stimato da Banca Italia. Insomma, queste cose a dire in queste condizioni, in pratica l'intervento di Napolitano, possiamo permetterci una crisi di governo? La risposta del capo dello Stato retorica è no, assolutamente no. E chiaramente i giornali la vedono, chi come il Fatto Quotidiano, Re Giorgio dagli ordini, a Parlamento, PD e Stampa, anche il Manifesto la vede così, Napolitanistan. Interessante retroscena di Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, che racconta Colle, addio sempre possibile, la carta coperta del presidente. La carta coperta del presidente sarebbe questa: potrebbe accadere di tutto in caso qualcuno voglia buttarsi nell'insana euforia di un cupio di soldi che sembra dilagare nel mondo politico. Potrebbe anche succedere, scrive Breda, che si richiuda la finestra per tempi eccezionali che si era aperta con la sua rielezione, spingendo il capo dello Stato alla più drastica delle opzioni, quella di dimettersi. Quindi questa potrebbe essere, secondo il Corriere, addirittura la carta coperta di Napolitano, e cioè dimettersi in caso davvero, nonostante i suoi moniti, nonostante i suoi inviti a non far cadere il governo, dovesse poi succedere, ecco allora la carta potrebbe essere quella: io mi dimetto. Per il Manifesto, titolo a pagina 3, il PD obbedisce e si liquefa. Mentre per il Corriere a pagina 5, Letta a questo punto respira. Avrebbe detto questo ai suoi, la battuta con i ministri, ho chiuso la finestra elettorale. Con questa battuta, tra l'altro detta prima che Napolitano parlasse, ma racconta il Corriere, rivelando dunque come già in quel momento Letta conoscesse il senso delle parole pronunciate come pietre da Giorgio Napolitano, ecco che allora Letta respira in questo momento. E tra l'altro scrive sempre il Corriere, questa è una cosa interessante che trovate un po' in esclusiva pagina 4 e 5, un retroscena firma Maria Teresa Meli, Letta sarebbe pronto in autunno, tutti in autunno, tra le tante cose da fare, anche a fare un rimpasto di governo. Attenzione, perché questa è una notizia interessante, il Premier ora pensa al rimpasto in autunno, è un po' una promessa che avrebbe fatto anche a Epifani, segretario del PD, che insomma in qualche modo spinge i malumori, mal di pancia all'interno del Partito Democratico, non sono solo quelli di Renzi. E allora la promessa l'ha affidata proprio nelle mani di Epifani, che continuava a dire noi non possiamo chiedere le dimissioni di Alfano, ma tu non puoi neanche chiederci di sostenere in modo acritico il ministro dell'Interno. La promessa di Letta è, udite udite, questa: in autunno Non siccome non si può fare un governo per tirare a campare, dobbiamo registrare delle cose, stiamo lavorando per un rimpasto di governo dopo l'estate. E si traduce così per il Corriere: Alfano, via dal Viminale, ministro dell'Interno, dovrebbe essere sostituito dall'attuale ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Questo racconta almeno il Corriere della Sera a pagina 4 e 5. Fantapolitica, chi lo sa, il dato di fatto è questo. Per calmare un po' le acque, ecco questa mossa. Chi si è calmato, ma non troppo, è il moccioso, come lo definisce oggi Libero, Matteo Renzi. Ieri è andato da Mentana e ha detto, beh sì, chiaramente il PD si è riallineato, Libero lo mette così, con la prima pagina c'è un disegno in prima pagina di Napolitano che seduto sculaccia Renzi, il bambino Renzi, kazaki amari per Renzi. Beh, effettivamente almeno in questa fase per alcuni analisti la politica risulta un po' sconfitto, il sindaco di Firenze voleva un po' forzare la mano, voleva vedere se c'erano i tempi per... anche se lui dice non volevo far cadere il governo, non voglio far cadere il governo, voglio che il governo faccia, voglio che il governo duri, duri per fare. In realtà per molti analisti della politica ha subito una battuta d'arresto, cioè questo stop di Napolitano è stato molto chiaro, non si cade, nessuno faccia cadere il governo, e anche per Libero a pagina 3 il sindaco abbassa le penne, tanto non ci fanno votare. Anche nel retroscena della Stampa Fabio Martini a pagina 3, Letta rassicurato, la ritirata di Renzi aiuta le larghe intese. Ieri Renzi ha detto, beh, mi tolgo dai problemi, da questo momento, dopo l'intervista che era fatto con Enrico Mentana, non parlerò più, non rilascerò più interviste, non parlo più con soprattutto del governo. Basterà questo per calmare le acque? Chi lo sa? Sta di fatto che anche per Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano è la sconfitta di Matteo, mister improvvisatore, non ha i numeri per incidere in Parlamento, i suoi si sentono abbandonati. Lui dice ieri non mollo. Però è chiaro che questa per lui è una battuta d'arresto. Oh ragazzi, io non lo so, quelli di Ryanair sono dei burloni, si sa, utilizzano sempre le pubblicità e i fatti anche di cronaca per fare le pubblicità, ma sapete questa vicenda kazaka che un po' di figure di palta ce le ha già fatte fare a livello internazionale sui giornali, e adesso ci va a fare anche la figura Ryanair che utilizza l'immagine di... per pubblicizzare un volo e scrive e usa Alfano, c'è una vignetta di Alfano, c'è un disegno di Alfano. Una cosa la so, che questo volo per questa tratta costa tot euro. Ecco, cioè Ryanair utilizza la foto di Alfano, prende di mira Alfano. Una cosa la so, presto andrò a casa con Ryanair. Questo è lo slogan della pubblicità della compagnia aerea low cost. Vabbè, oltre agli articoli anche presi per il culo da Ryanair, questo è il dato di fatto. In tutto questo la strategia berlusconiana è, beh, prima notizia data in pompa magna dai quotidiani: oggi Berlusconi torna in Senato per votare la fiducia, il suo segnale per dire che blinda Alfano eccetera. Per me pare un pochino già normale che un senatore vada al Senato, o no? O sono strano io a pensare? Comunque, la notizia è che oggi Berlusconi torna al Senato. Si dà per scontato che quindi finora al Senato si era visto un po' pochino. Per un senatore dovrebbe essere una cosa, ripeto, una prassi andare al Senato. Questo vale per Berlusconi come dovrebbe valere per tutti. Però di fatto il retroscena su Repubblica è interessante, a pagina 9 Francesco Bei, attenzione perché scrive Repubblica, Berlusconi vorrà utilizzare in qualche modo il messaggio di Napolitano, e cioè non ci possiamo permettere una crisi in questo momento, in questa chiave, nel vertice notturno che ha fatto a casa sua Berlusconi ha detto la speranza è che anche i giudici della Cassazione si sintonizzino con il Colle ed evitino all'Italia una pericolosa crisi al buio. È messa così severa, come dire, c'è un procedimento giudiziario e vabbè, ma c'è una crisi dietro l'angolo, i giudici ci pensino su e ascoltino le parole di Napolitano. ripeto, messa così è uno scenario un pochino inquietante. È raccontata la Repubblica, per carità, è un retroscena, sarà successo, non è vero, non l'ha detto Berlusconi, smentirà, non lo so. Io la riporto come la riporta un quotidiano. A proposito del processo della Cassazione, è molto interessante ciò che scrive oggi Donatella Stasio sul Sole 24 Ore, e siamo a pagina 14. Perché? Perché si è vociferato e si è detto: ah, ma Berlusconi forse fa questa mossa di rinunciare alla prescrizione. Stasio racconta in maniera impeccabile che dal punto di vista del diritto non è possibile. Berlusconi, prescrizione irrinunciabile. Rinunciare alla prescrizione il 30 luglio è impossibile. A questo punto per Silvio Berlusconi non c'è altra strada che aspettare il giudizio della Cassazione sulla sua condanna nel processo Mediaset a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione ai pubblici uffici. Tutto al più potrebbe chiedere un rinvio di qualche settimana, ma anche se lo ottenesse si ritroverebbe davanti gli stessi giudici del 30 luglio e non un collegio diverso. Certo è che invece la rinuncia alla prescrizione, di cui si è sparsa voce da qualche giorno, è un'ipotesi del tutto irrealistica perché tecnicamente impraticabile. Non si può infatti rinunciare a qualcosa che ancora non si è verificata e quindi non si può rinunciare alla prescrizione prima che i termini siano scaduti. Questo è quello che dice la giurisprudenza della Cassazione al riguardo, non lascia dubbi. L'ultima sentenza che sancisce questo principio è del 12 novembre 2012, quindi anche in caso di rinvio la Corte fisserebbe l'udienza prima della scadenza della prescrizione e Berlusconi non avrebbe nulla a cui rinunciare. Avete capito? Cioè si può rinunciare alla prescrizione solo quando la prescrizione entra in vigore, quindi sono scaduti i termini. Non si può, secondo la giurisprudenza, rinunciare alla prescrizione prima che scadano i termini di prescrizione. Questo per il Sole 24 Ore. Vabbè, se volete la politica si è anche un pochino arrabattata ancora per questa vicenda Chienghe. C'è il Secolo XIX che informa che il Movimento 5 Stelle sta ipotizzando di buttare fuori, cacciare la deputata Serenella Fucsia, deputata, senatrice, non lo so, quella che al Secolo XIX ha detto: ma sì, ma in fondo Calderoli che male ha fatto, cioè l'orango, la Chienghe, effettivamente anch'io faccio questo gioco, associo le persone, gli animali. Questa uscita di Serenella Fucsia non è stata gradita e allora, caso Chienghe, il Movimento 5 Stelle pensa all'espulsione della Fucsia. Pagina 5 del Secolo XIX, Ilario Lombardo racconta che alla Camera cresce il malcontento, molti dicono è ingestibile, basta un cenno e noi siamo pronti a farla fuori. Molti del Movimento 5 Stelle dicono così. Stiamo forse per archiviare il caso Kazako. Mi sono concentrato perché la cacofonia è a rischio di figuracce clamorose. Caso Kazako, che quasi si sta per aprire il caso con Washington. Hanno arrestato a Panama, su ordine di una sentenza italiana, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, Robert Seldon Lady. Chi è Robert Seldon Lady? È colui che è stato condannato a 9 anni in Italia, anche se in contumacia, perché era il capo della CIA, uno dei responsabili della CIA, che fece la famosa rendition di Abu Omar. Vi ricordate l'imam egiziano preso a Milano, mandato in piena periodo di guerra, lotta al terrorismo, mandato in qualche prigione americana e anche torturato, eccetera. È stato arrestato a Panama l'uomo della CIA responsabile del sequestro di Abu Omar. L'Italia chiede l'estradizione. Abbiamo appena ricomposto, stiamo ricomponendo i fili con il Kazakistan, che così magari ci lascia godere ancora di qualche centimetro cubo del suo gas, del suo petrolio, e adesso ci scoppierà il casino con Washington. Vabbè, pazienza. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua a sfornare sfilatini. Allora, in tutto questo l'economia, vabbè, sembra, no, non una barzelletta, perché è una cosa molto seria, ma quando io dico ragione si fa tutto in autunno, slitta in autunno, rimanderemo in autunno, a parte il finanziamento pubblico ai partiti, quella tranche da 91 milioni di euro, quella se la inglobano nelle tasche e nelle casse il 31 luglio, tutto il resto in autunno, IMU IVA. Il governo prende tempo. Questo è il titolo del Messaggero a pagina 10. Scusate se viene da sorridere, ma slitta tutto al 31 agosto. Il Messaggero, ma lo trovate un po' ovunque. Falsa partenza su IVA e IMU, pagina 13 di Repubblica. Slitta tutto. Ragazzi, ma qua cioè, si può sorridere di questa cosa perché sembra veramente la barzelletta di Enrico Slitta, ma la situazione comincia un po' a farsi fastidiosa. Che dite? Anche perché sentite qua su Repubblica, dopo che Letta ha incassato questo respiro, cioè che può respirare, eccetera, scongiurato pericolo, dopo la blindatura di Napolitano, ora ci sarà l'annuncio delle dismissioni del patrimonio pubblico. Ma come l'annuncio? Ma l'annuncio c'è da 40 anni, perché c'è bisogno di un nuovo annuncio? Oppure, ora riparte la spending review, sempre titolo di Repubblica, pagina 13. Ma come riparte? Io mi sono perso la prima partenza. Non capisco, veramente faccio fatica a capire. Eccolo qua, rebus IMU rimandato a settembre, anche per il Quotidiano Nazionale. Poi uno legge a pagina 7 del giornale e dai sorrisini e dalla scoramento e dalla sfiducia comincia a montare anche un pochino di rabbia, perché legge un trafiletto uno sul giornale a pagina 7 sulla spending review. Tra poco arriva il commissario nuovo, il suo compito tagliare la spesa pubblica, lavoro complesso, per questo remunerato così: 150.000 euro quest'anno, 300.000 euro per il 2014, 300.000 euro per il 2015, 200.000 euro per il 2016, per un totale di 950.000 euro per il commissario che deve tagliare la spesa pubblica. Ecco, non lo so. Cambiamo argomento? Ligresti, la vicenda Ligresti, partono gli interrogatori di garanzia, come racconta Filomena Greco oggi sul Sole 24 Ore, pagina 9. C'è la vicenda di Paolo, uno della famiglia Ligresti, e vale a dire il cittadino svizzero da 3 settimane, come hanno fatto sapere gli avvocati, e quindi non ha intenzione di tornare dalla Svizzera. Il Corriere della Sera è andato sulle sue tracce, Corinna De Cesare. A pagina 17, rifugio a 8 km dal confine, villa con piscina, vista sul lago, viene fotografato. Ci sono i dettagli anche di che cosa? Massimiliano Peggio sulla stampa, di dettagli che spuntano dalle carte, dall'inchiesta, dalle carte dell'indagine, spunta una tonnellata di aragoste, una tonnellata, 1.000 chili che sarebbero stati mai pagati. Parlano due persone intercettate da Guardia di Finanza. Stanno a guardare i conti dell'Ata Hotel, società riconducibile ai Ligresti, e Marchionni dice: i conti dell'Ata Hotel quando lui non pagava, e l'amico: certo, non ha mai pagato, pare che ci sia un quintale, no un quintale, una tonnellata di aragoste in un conto, una tonnellata. Fai presto, sai, inviti un po' di gente, un'aragosta pesa 1 chilo. Tu sai quante gente veniva invitata al Tanca Village. Il Tanca Village, che in queste intercettazioni in Sardegna, Villa Simius, viene definito il bibilionaire della finanza, non il bilionaire, il bibilionaire, cioè bilionaire al quadrato, diciamo. E si racconta, in questo intercettato, Fausto Marchionni è l'ex amministratore delegato di Fonsai agli arresti domiciliari, si parla di anche spaccati, di vita, di bella vita, 5 autisti, 10 macchine, 20 utenze telefoniche, insomma, già ieri anche il Sole 24 Ore, anche Repubblica, con un articolo molto molto dettagliato di Alberto Statera, raccontava anche il tenore di vita dei Ligresti, della famiglia. Così Fonsai truccava le riserve. Laura Galvagni spiega nel dettaglio come funzionavano tutte le pratiche, secondo la procura, per la quale sono stati accantonati, secondo l'accusa, tolti 538 milioni da Fondiaria SAI per evidentemente essere occultati dalla famiglia Ligresti. Così sostiene, ripeto, la procura di Torino che ha proceduto agli arresti. Tutti i meccanismi e le cifre, i raggi X, li trovate a pagina 8, l'articolo più dettagliato e più interessante di come funzionava, secondo l'accusa, questa vicenda. Allora io devo chiudere. Oggi la carta costa un premio. ha un premio che è sensazionale. Oggi va a Elena Gagliardoni del Giornale, siamo a pagina 18, mezza pagina, sulla nuova moda in Italia. La vacanza è più piacevole con i libri a quattro zampe. La nuova moda, reggetevi forte, è questa. Fotografare, leggere i libri e fotografare mentre si legge i libri, si leggono i libri a fianco a cani, cagnolini, gattini che intanto fanno le fusa vicino a voi. Associare la compagnia della lettura a quella di cani e gatti è il modo migliore per valorizzare la cultura. Non si capisce bene perché. Teneteli, abbracciateli, baciateli, non abbandonateli mai, animali e libri. Anzi, non abbandonateci, animali, libri e giornali. Ecco, fa l'appello anche per i giornali. E racconta leggere nel brio di culetti che scodinzolano in studio oppure su divani, mentre i gatti fanno le fusa. Ecco la nuova moda. E il Giornale dedica mezza pagina e poi fanno l'appello a dire non abbandonateci i giornali. La carta costa, ma qua nessuno lo capisce. 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, Napolitano, ieri il capo dello Stato è stato chiaro, no? Cari italiani, è stato chiarissimo, realista, pragmatico, una lezione di cosiddetto realpolitik, si potrebbe dire. Il capo dello Stato ieri ha detto: cari cittadini, si può, secondo voi, possiamo permetterci in questo momento una crisi di governo? In questo momento in cui tutti i dati economici sono negativi, meno 1,9% di PIL, 130% del debito pubblico, il rapporto debito PIL, il 13% di tasso di disoccupazione previsto per il 2014 stimato a Banca Italia, in questa situazione possiamo permetterci una crisi di governo? No. Sentiamole le parole del capo dello Stato. Si può mettere a repentaglio la continuità di questo governo impegnato in un programma di attività ben definito senza offrire pesanti ragioni ai più malevoli e anche interessati critici e detrattori del nostro paese pronti a proclamare l'ingovernabilità e inaffidabilità dell'Italia? I contraccolpi a nostro danno nelle relazioni internazionali e nei mercati finanziari si vedrebbero subito e potrebbero risultare irrecuperabili. Ecco, Napolitano ha detto in pratica: non fate cadere il governo in questo momento. Che ne pensate, cari italiani? 800 24 00 24. Oggi si vota in mattinata la mozione di sfiducia personale proposta da Movimento 5 Stelle e SEL nei confronti del ministro dell'interno Angelino Alfano. Certo che si sia fatta una figura kazaka, la cacofonia è rischiosa, lo so, scusate, ma è abbastanza evidente, sotto gli occhi di tutti. Ma secondo voi per questa figura kazaka si deve mettere a repentaglio l'esecutivo? Ne parliamo con Piero Stellino, che è editorialista del Corriere della Sera, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, Stellino. Buongiorno. Saluto anche il senatore Andrea Marcucci, che è del Partito Democratico, buongiorno, ben ritrovato anche lei, senatore. Buongiorno a tutti. Presiede la Commissione Istruzione e Cultura, è renziano, così ci capiamo, bisogna sempre dirle queste cose, perché altrimenti gli ascoltatori non capiscono bene tra le varie anime del PD. E tra l'altro lei è uno dei tre che ieri, del PD, che ieri ha, quando si è proposto di capire nel partito come ci comportiamo, è uno dei tre che ha detto era pronto a votare la mozione di sfiducia. E poi adesso che farà invece Marcucci? Si riallinea dopo le parole di Napolitano? No, ma in realtà bisogna partire un pochino prima. Io nella riunione di gruppo del Partito Democratico ho chiesto al Partito Democratico di promuovere come soggetto politico una mozione di sfiducia, o meglio ancora una mozione di censura nei confronti del ministro Alfano e per le vicende, diciamo, ahimè, ormai tristemente sì, note. Cioè lei ne voleva fare una addirittura del partito, non appoggiare quella degli altri. Certamente, è ovvio che alla mozione di sfiducia delle opposizioni non si possa che votare no, e che questo avrebbe altrimenti avrebbe significato la caduta del governo, cosa che non è mai stato minimamente nelle nostre intenzioni. Quello che era nelle nostre intenzioni era disgiungere la posizione del ministro Alfano, che oggi è un ministro degli interni part-time, perché questa è una delle questioni rilevanti, nel senso che fa il vice premier, fa soprattutto il segretario di un grande partito, mi sembra anche quello con tanti problemi, e fa anche il ministro degli interni. Noi avremmo voluto disgiungere, riteniamo che l'Italia abbia diritto ad avere un ministro degli interni con tutti i problemi che abbiamo, diciamo da questo punto di vista, full time, e riteniamo che questa vicenda, io personalmente ritengo che questa vicenda internazionale sia veramente molto molto grave, per cui il Partito Democratico avrebbe dovuto prendere una posizione molto più rigida, più netta nei confronti del ministro Alfano esclusivamente. Lei sa che esclusivamente non vuol dire nulla, cioè il punto politico è ribadito da tutti, anche da Berlusconi due giorni fa: se cade Alfano cadono le larghe intese, quindi voi... Io non credo che sia così, guardi. Io credo che se il Partito Democratico avesse avuto la forza e la determinazione di disgiungere due questioni, di chiarire con nettezza che il governo non era in discussione, di analizzare attentamente e anche nei confronti dell'opinione pubblica la gravità di questa vicenda creata dal ministro Alfano, io non credo che si sarebbe arrivati a una crisi di governo. Comunque 800 24 00 24, oggi il parere dei nostri ascoltatori lo voglio davvero stimolare, perché la situazione è possibile crisi di governo, che pare rientrata ormai dopo la blindatura di Napolitano, però voglio capire la gente comune cosa ne pensa. Allora, intanto Piero Stellino, anche lei ieri sul Corriere della Sera ha scritto l'editoriale di prima pagina a dire insomma siamo tutti d'accordo che la figura kazaka sia stata una figura, ecco appunto, kazaka, però come giudica l'intervento di Napolitano? Per alcuni giornali viene dipinto come Re Giorgio che oggi ordina di fare quello che si deve fare. Io lo giudico molto positivamente, perché mi pare che sia rimasta la sola personalità politica del paese che continua ad avere una condotta molto coerente e molto giusta nei confronti del paese. Cioè, l'intervento di Napolitano ci voleva ed è molto importante, e lo condivido totalmente, non solo perché io ho scritto ieri sul Corriere più o meno le stesse cose, ma certo che se le scrivo io e le dice Napolitano la differenza è enorme, è molto importante. Si può inorgoglire insomma, per questa cosa. Ma io non mi inorgoglisco, ma insomma mi fa piacere, perché insomma io ho molta considerazione per Giorgio Napolitano, perché lo considero un uomo di grande equilibrio, e in queste circostanze lo dimostra chiaramente. Che poi in fondo finisca col comportarsi come un monarca costituzionale non è nemmeno male, insomma, ecco. Cioè, lei ammette questa cosa, c'è effettivamente, cioè si comporta un po'... Sì, ma non è un male, non è un male, è un bene. Cioè, il fatto che il Presidente della Repubblica si comporti come si comporterebbe un monarca costituzionale inglese, cioè nella patria della democrazia, è un fatto molto positivo. Cioè, fa benissimo intervenire, come è intervenuto ieri, e a richiamare le forze politiche all'ordine. Però la nostra Costituzione, il governo sarebbe devastante. Questo sì. Però la nostra Costituzione non prevederebbe, diciamo, questo ruolo da parte da monarca costituzionale. Beh, oddio, i poteri che la nostra Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica assomigliano un po' a quelli di cui dispone un monarca costituzionale, e che poi Napolitano, come dire, utilizzi questi poteri ai fini di tenere in equilibrio un sistema politico che è sempre sull'orlo della crisi, beh, questo a me pare molto importante, indipendentemente dal fatto che poi sia il Presidente della Repubblica o un monarca costituzionale. Le faccio questa domanda, Stellino: secondo lei è più grave il fatto che abbiamo fatto questa figura su questa vicenda kazaka, e quindi adesso ci si dibatte se sia o meno il caso di staccare la spina su una vicenda comunque grave? O forse è più da sottolineare il fatto che il governo che cosa ha fatto fino adesso? Perché tutto viene rinviato in autunno, non mi sembra che ci siano dei provvedimenti che siano passati e che passeranno alla storia come epocali nei primi 100 giorni di governo Letta. Ecco, non è forse questo il succo in realtà del discorso che si dovrebbe fare? Ma io l'ho scritto anche ieri, cioè machiavellianamente il governo dovrebbe comportarsi alle volte come volpe e alle volte come leone, però si comporta sempre come volpe, cioè tende a tirare a campare come facevano molti governi democristiani, cioè Letta deve liberarsi da questa ipoteca che ha sulle spalle, cioè di essere un ex democristiano, e quindi deve agire come il capo di un governo che ha la capacità e la forza di prendere delle decisioni. Il paese aspetta delle decisioni da parte del governo di sistema. Anche lo stesso caso Casaco rivela non solo, come dire, una certa carenza da parte del governo, il fatto che ci sia un ambasciatore straniero di una lontana ex Repubblica Sovietica che conta più del governo italiano in una vicenda come questa, ma anche il caso Casaco dimostra che non c'è un rapporto sistemico tra la burocrazia e la classe politica. Cioè, se qualcosa è emerso chiaramente nella vicenda casacca è che la burocrazia sembra lavorare in modo non contemporaneo a quello del governo, sì. Cioè il governo, la classe politica fa una cosa e la burocrazia ne fa un'altra. Allora, poiché è evidente in Italia che il comportamento della classe politica, di un ministro, dipende dalle informazioni che la burocrazia gli fornisce, se la burocrazia non gli fa arrivare sul tavolo le informazioni corrette e non c'è una corretta comunicazione tra burocrazia e ministro, succedono le cose che sono successe nel caso Casaco. Questo sì. Cioè, bisogna veramente rivedere anche il funzionamento del nostro ordinamento giuridico. Ma guardi, oggi il ordinamento giuridico non funziona. Su allora questo sarebbe compito del Parlamento, questa volta non del governo, prendere in mano la situazione e cercare di stabilizzare questo ordinamento giuridico che sta travallando da tutte le parti. Guardi, oggi Michele Ainis, sempre sul Corriere, nell'editoriale di prima pagina, fa proprio un fondo a dire che questa lezione ci sia, che questa vicenda kazaka ci sia da lezione, da insegnamento per rimodulare anche il rapporto tra la burocrazia e la politica, perché stando almeno a quello che è stato il racconto, c'erano degli alti, altissimi apparati dello Stato che avrebbero preso delle decisioni a insaputa del referente politico che è responsabile politicamente di questi apparati. Lei, senatore Marcucci, senatore del Partito Democratico, crede all'insaputismo di Alfano? Ma guardi, io personalmente credo, l'ho detto all'inizio, anzi mi permetta, non ho concluso la mia risposta, sì, dicendo cosa farò oggi. Io oggi ovviamente voterò contro la mozione di sfiducia e quindi a favore del governo. Ribadisco, la posizione nei confronti del governo, almeno da parte mia, non è stata mai messa in discussione. In discussione è, lo confermo, la posizione nei confronti del ministro. No, io non credo molto in questo, credo che ci siano delle responsabilità molto gravi, anche da parte della politica. La prima è, lo ribadisco, che il ministro degli interni deve essere un mestiere a tempo pieno. In Italia è talmente importante questa posizione che oggi, soprattutto oggi, è sbagliata farlo, diciamo, con la mano sinistra se uno è destro o con la mano destra se uno è mancino. Prima questione. Seconda questione, se l'insaputismo, come lo definisce lei, considerato che la vicenda parte dal ministro, ci vuole un grandissimo sforzo di buona fede per crederci, e poi sono tra quelli che pensa che se in realtà fosse proprio così, forse la vicenda è ancora più grave. Certo è che un ambasciatore straniero di un paese sostanzialmente, non lo possiamo definire di serie B perché non ci sono paesi di serie B, ma non così importante, in Italia all'interno del Ministero dell'Interno ha dato tempi, obiettivi, modalità, ha gestito direttamente una operazione di questa gravità. Guardi che allora, è discretamente importante su alcuni fronti, per esempio quello economico, certo, quello economico e quello energetico. Ma è arrivato al punto, no? Credo. Ma questa non è la realpolitik, cioè se no che dobbiamo fare? Non dobbiamo più affari con il Kazakistan? Questa perché è la realpolitik e dobbiamo serenamente fare gli affari con, però la politica deve svolgere il proprio ruolo e queste questioni devono essere gestite in maniera molto diversa, diciamo. Questo sì. Come sono state vestite. Senta, prima della pubblicità, senatore Marcucci, lei lo paragonerebbe, come qualcuno ha fatto, quello che Alfano ha detto al Parlamento, come la celeberrima bugia di Rubi e Mubarak detta in Parlamento? Ma io non credo che le due questioni siano paragonabili, però il clima non era lontano. non era lontano come clima, perché dice non molto, cioè non paragonabili, certo sono vicende diverse, però l'idea è di una, come dire, qualcuno dice una menzogna con l'avallo di un voto parlamentare. Sì, vabbè, intanto qui oggettivamente in discussione una questione di governo, comunque la si veda una questione di governo, dall'altra parte non mi sembra si parlasse di questo. Questo sì. Andiamo a sentire la pubblicità, tra qualche minuto rientriamo con Piero Stellino del Corriere della Sera, il senatore Andrea Marcucci, Partito Democratico. Anche i vostri interventi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, la che ne pensate? Ha fatto bene Napolitano a dire ragazzi italiani, qui ci possiamo permettere in queste condizioni, seppur nella gravità del fatto, una crisi di governo con tutto quello che ne consegue, i mercati internazionali che ci osservano, la crisi economica che incombe, ma siamo matti? Questo non l'ha detto così, siamo matti, lo aggiungo io, ma il senso era questo. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:36 minuti, 800 24 00 24, stiamo parlando della situazione politica, siamo con il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci e con Piero Stellino del Corriere della Sera. Ostellino, le vorrei chiedere questo, mi pare che in questa fase la sconfitta, quello che mastica amaro, colui che in questo momento deve incassare un po', come dire, il ritirate le armi, sia Matteo Renzi, che ieri tra l'altro da Mentana ha detto adesso non parlo più del governo. Secondo lei Renzi in questo momento è lo sconfitto politicamente parlando? Ma a me pare che ci sia, come dire, una fibrillazione eccessiva dentro il Partito Democratico, perché tutto lo spazio che ha avuto l'ambasciatore Casaco non è nato perché gli uomini siano cattivi, ma perché in natura, come in politica, quando si crea un vuoto qualcuno lo riempie. Ora c'è troppa gente nel quadro politico, nella burocrazia, sui giornali, che vuole la crisi di governo. E su questa gente si è innestata la manovra dell'ambasciatore Casaco. Allora ha fatto bene Napolitano ad intervenire così chiaramente. A cominciare dal Partito Democratico si deve dare una regolata, cioè non può far ricadere sulla maggioranza di governo le sue fibrillazioni interne in continuazione. Cioè il Partito Democratico non ha più quella compattezza che aveva il Partito Comunista, e questo è anche abbastanza normale. Il Partito Comunista era quello che era, il Partito Democratico è un'altra cosa. Però d'altra parte, quando partecipa ad una coalizione di governo, non si può frazionare perché ciascun personaggio all'interno del Partito Democratico cerca un suo ubicum system, cioè cerca di distinguersi dagli altri comportandosi in un modo diverso nei confronti della coalizione di governo. Sì. Perché non è logico e non è nemmeno serio. Se noi abbiamo bisogno, c'è bisogno in questo paese di una forza di sinistra capace, governativa, riformista, col coraggio di fare le cose. Ma non che il Partito Democratico non sembra in grado di farlo. Lei dice passa il tempo a litigare. Eccessi di personalismo che frazionano il partito e si ripercuotono sul governo. E questo uno di questi è Renzi. Quindi ha fatto benissimo Napolitano a dire che è irresponsabile chiunque oggi cerchi di far cadere. Ma uno di questi eccessi di personalismo lo vede in Renzi, Matteo Renzi? Beh certo, anche Matteo Renzi cerca una sua posizione, quindi è evidente. Ora io non sono, come dire, favorevole al centralismo democratico del vecchio Partito Comunista, però il centralismo democratico aveva una sua funzione, non chiamiamolo centralismo democratico, chiamiamolo in un'altra maniera, ma questo partito deve darci una regolata, cioè ci devono dare tutti una regolata, senatore... cioè, in altri termini deve subentrare all'interno del partito almeno un minimo di regole del gioco che facciano sì, che non succeda che ciascuno al mattino si alza e dice la sua pro o contro il governo minacciato di far cadere. No, ma perché il paradosso è proprio questo, sembra, e senatore Marcucci, sembra davvero che le tensioni siano soprattutto quelle del Partito Democratico che rischiano di mettere ogni giorno quotidianamente sulla graticola il governo. Marcucci, Renzi si deve dare una regolata? Lo chiedo a lei che lo conosce allora, bene. Io parto, non so, per esempio da pagina 8 del Corriere della Sera, i kazaki ordinarono i blitz ai poliziotti dall'ufficio del gabinetto del ministro. Allora io tornerei su questo, perché vedete che il Partito Democratico lo sforzo del paragone col PC, io che vengo dal Partito Liberale Italiano, mi fa un po' soffrire, ma insomma diciamo non è questo il dibattito giusto. Ma che il Partito Democratico dibatta, se avere una posizione più rigida, non nei confronti del governo, ma nei confronti del Ministro degli Interni, non mettendo mai in discussione la fiducia al governo, mi sembra una forzatura. È normale che un partito come il nostro abbia un confronto interno che poi una volta conclusosi richiede diciamo il rispetto delle decisioni che vengono prese, tant'è che io oggi che sono stato il più acceso contestatore della linea che poi abbiamo che deciso poi di portare avanti, andrò in aula e voterò questa linea. Quindi a me non sembra che il problema sia il Partito Democratico. No, però ogni giorno sui giornali c'è questa tensione, questa, no, Renzi dice una cosa, Letta fa il controcanto. Capisce che io credo oggi il più grande e comunque il partito diciamo più centrale della politica italiana si avvia a un congresso che ci sarà entro la fine dell'anno, credo che lo stesso succeda nel partito laburista inglese o succeda nel partito socialdemocratico tedesco. Dopodiché ribadisco, non era in discussione la sopravvivenza del governo. Io quello che io non mi posso permettere di dire che il Presidente della Repubblica abbia fatto un errore, apprezzo molto la sua azione e soprattutto so che sempre agisce nell'interesse del nostro Paese. Detto questo, il focus forse doveva essere sul Ministro Alfano, cioè il governo non è in discussione, qui c'è bisogno che il Ministro Alfano, che si è dimostrato inadeguato a fare il Ministro dell'Interno, ce ne vale. facesse semplicemente un passo indietro, almeno come Ministro dell'Interno. Ma ho capito, ma Marcucci, ma lei perché i kazaki hanno gestito questa va cosa bene direttamente, è una vergogna per ma il sì ma paese. Lei insiste su quindi questo, ma il governo non è in discussione, lei il governo non è mai stato in discussione. Ma lei non le mette insieme le due cose? Ma se dall'altra parte la spalla più robusta che appoggia il PD nel governo dice se togliete Alfano cade il governo, questo è, e uno ne deve tener conto, non è che con questo bluff non si sa dove si arriva. Ma infatti questo è il punto che molti italiani si interrogano, se adesso a questo punto non si sa dove si arriva, qual è la prossima? Non lo so, infatti il problema è che nasce tutto in una maniera, sappiamo, un po' anomala. Il rischio che molti italiani si chiedono è che adesso a questo punto in nome della stabilità di governo superiore possa succedere tutto, ma qua non deve crollare niente perché non si può toccare lesa maestà. Fatemi sentire qualche ascoltatore. Paolo da Siracusa. Paolo, buongiorno. Dica. Sì, Paolo. Pronto? Dica. Sì, allora io praticamente volevo dire semplicemente che il presidente Napolitano non ha fatto né bene e né male, nel senso che ormai è sotto gli occhi di tutti che la distinzione fra governo e paese è netta, cioè nel senso che il governo va avanti da sé e il paese altrettanto. E cioè praticamente io noto, essendo nel campo del lavoro, un cittadino normale come gli altri, che le aziende addirittura cercano di difendersi dallo Stato. Cioè lei dice la politica faccia qualsiasi cosa che noi ci arrangiamo, quasi il paese vanno su binari paralleli. All'arrangiamento proprio, totale. All'arrangiamento. Cioè i provvedimenti che fanno, insomma, sono provvedimenti che non fanno altro che metterci in ridicolo verso il mondo e non creano nulla per il tessuto sociale. E non facciamo altro che difenderci e cercare di insomma andare avanti ed evitare il peggio. Cioè lei, Paolo da Siracusa, ci dice noi nel senso il paese reale va il avanti reale. Nonostante la politica, ecco, diciamo, nonostante la politica. Grazie Paolo, considerazione molto interessante, anche molto forte. Fabio da Vicenza, buongiorno Fabio. Sì, buongiorno a voi. Niente, io non sono d'accordo su quello che ha detto Napolitano, per gli stessi principi per cui aveva detto il senatore del PD, mi pare. Marcucci. Perché così, sì, perché così si crea un'immunità praticamente verso chiunque compia degli atti come quello che ha fatto Alfano. Cioè poi per quanto riguarda il ricatto internazionale, io sono convinto che se cade un governo sull'immediato sì, ma alla lunga l'Italia non conviene a nessuno distruggerlo. Però attenzione, scusi, quello che ha fatto Alfano in realtà, cioè, in teoria invece è il contrario, quello che non avrebbe fatto, quello che non sapeva che qualcuno stava facendo a sua insaputa, ecco questo. Però dica. La mente è vergognosa, il Viminale sapeva e lui sapeva, quindi questa è un'ennesima presa in giro. Lo dice lei, è un'ipotesi che molti hanno, però non è che abbiamo... Sì, però è impossibile che un ministro, anche quando non sapesse lo stesso... responsabile. È peggio. Poi per quanto riguarda il PD, certo, finché non fanno il congresso questo partito avrà sempre dei problemi interni, perché ha diverse anime. Io sono un elettore del PD e sono un po' nauseato di quello che vedo, come sono nauseato di stare al governo con il PDL, e come mi dispiace che Letta continui a non prendere posizione su determinati argomenti, perché io sono d'accordo che il PDL non ha, come si dice, interesse a far cadere questo governo, però così non si può continuare. Lei è uno degli elettori del PD sfiduciato, vede bene Renzi? Nauseato. Vedrebbe bene Renzi nel futuro del partito o no? A me basta che ci sia una leadership forte che venga fuori dalle primarie fatte in maniera seria, così si levano tutti questi personaggi che non hanno voti. E faccio anche l'esempio di Franceschini senza problemi, stiamo attenti. Il vecchio sistema, perché qua il PD è governato da persone che nella realtà non hanno voti, e le primarie delle varie amministrative lo confermano, che dirigono un partito. Cioè, questa è una cosa, un'anomalia che prima si leva. Grazie Fabio, andiamo a sentire il traffico. Sono due considerazioni dal quale molto interessanti, Paolo da Siracusa e Fabio da Vicenza, e partirò da Piero Ostellino per commentarle. Allora Ostellino, due considerazioni. Paolo da Siracusa ci dice il paese reale va avanti quasi nonostante la politica, quasi in contrasto con la politica, e però poi le voglio fare anche commentare ciò che ci ha detto il senatore Marcucci, cioè di questa linea, cioè la linea che qualunque cosa succeda non possiamo permetterci una crisi. Che succederà? Allora spostiamo il limite, legittimiamo tutto? Sono due elementi molto interessanti, il suo parere. Ma no, non si tratta di legittimare tutto, si tratta di prendere atto realisticamente della situazione. Quello che dice l'ascoltatore, sono nauseato dall'alleanza del PD con il PDL, è un giudizio morale che nasce da una interpretazione della politica antropologicamente presuntuosa, cioè la sinistra ha una cultura e una moralità superiore a quella della destra, e quindi la sinistra non si può compromettere con la destra perché la destra è la parte cattiva del paese. Questo è il frutto di una predicazione che lo stesso Partito Democratico ha fatto e molti giornali fanno e continuano a fare, che è semplicemente assurda in un paese democratico. Però che questa, come dire, presunzione antropologica in base alla quale se io sono di sinistra sono meglio di quello di destra, anche moralmente, culturalmente e dal punto di vista intellettuale, si riflette dentro al Partito Democratico, cioè dentro al Partito Democratico c'è un antico riflesso staliniano in base al quale si deve pensare che non si devono avere nemici a sinistra, pas de ennemi à gauche, dicevano i francesi. Beh, no, non è vero, perché è inevitabile che un Partito Democratico di sinistra, un partito riformista di sinistra, possa avere alla propria sinistra qualcuno che lo propria sinistra, certo. E di questo il Partito Democratico e gli uomini della sinistra del Partito Democratico però devono prendere atto. Perché invece non sul si fatto può mai immaginare di non essere sufficientemente a sinistra. Questo sì, vediamo perché se non ha nessun senso. Lei senatore Marcucci si capisce la nausea dell'ascoltatore oppure è un discorso, come diceva Ostellino, antropologicamente presuntuoso? Logico, non mi ci ritrovo, sono proprio lontano da questo mondo e anche da queste presunzioni. E credo che il Partito Democratico inevitabilmente continuerà a avere e ha avuto anche negli anni recenti nemici a sinistra, la sinistra alternativa, quella non di governo, quella non di responsabilità. Questo è un governo di responsabilità nell'interesse del paese, però quando in questo governo qualcuno fa degli errori molto gravi, tutti, incluso il Presidente della Repubblica, devono chiedere ai soggetti di fare un passo indietro. O il ministro idem è un ministro diverso. Ma questo è un tema interessante. Guardi che sa che sul Corriere della Sera c'è un interessante retroscena in cui si racconta che in realtà Letta avrebbe promesso a Epifani un rimpasto di governo a settembre, se tutti in autunno, ovviamente tutti in autunno, quel memorabile autunno del 2013, succederanno tante cose, un rimpasto di governo con via Alfano e dentro si parla Beatrice Lorenzin dalla Salute. Quindi in realtà lei vede che sotto traccia crede a questa idea, cioè che sotto traccia in realtà qualcosa, cioè il fatto che Alfano non possa stare più lì perché a mezzo servizio succederà? Ma io ho apprezzato anche altre parti del ragionamento che ha fatto il presidente Napolitano, in particolare quella dove non ha sottaciuto la gravità estrema di questa vicenda, il che mi fa pensare che ci sia una volontà del Presidente della Repubblica poi di, diciamo, dare ragione di questa vicenda, dopodiché i modi, i termini temporali ovviamente se le vedrà il Presidente del Consiglio. Comunque non so se ci credo, sicuramente me l'auguro. Se lo augura. Sentiamo un altro ascoltatore che è Mario da Bologna. Buongiorno Mario. Buongiorno, io cercherò di essere lapidario. Svelto, dica. Ascolti. L'italiano è andato a votare, quando va a votare sa che deve prendere una decisione, deve dare una maggioranza. In questa occasione non l'ha data, ha dato 30-30-30 e nessuno riesce a fare una maggioranza. La colpa non è del senatore o dell'onorevole, la colpa è dell'italiano che in certo momento ha dato una delega a queste tre fazioni. Mario, non è che gli italiani si sono telefonati, si sono messi d'accordo, è successo perché... No, ascolti, io parlo di a un certo momento se sa quello che fa, se va a votare deve saperlo. Alla fine... lui si prende la sua responsabilità, ha delegato queste tre fazioni di fare un governo e va avanti 5 anni. Ma mi scusi, ma il voto è personale, cioè lei, signor Mario, quando è andata a votare, votava pensando che il partito che lei votava sarebbe risultato vincitore, o sperando, augurando. Non è che si sono messi d'accordo gli italiani, in tre votano questo, in tre votano... Poi... Allora non mi sono spiegato, dico che l'italiano deve essere preparato. Sapere che quando va là deve decidere. Ma mi scusi, ma questo presuppone che chi ha votato in un modo come lei pensa è educato. 36 opzioni, scusi, ne deve avere due, perché se no non si fa il 51%. E vabbè, ma questo allora è un problema del sistema elettorale, di troppi partiti, l'italiano che colpa ne ha? Ha la colpa che ha delegato questi partiti a fare il sistema elettorale. Ah, e vabbè, chi lo deve fare il sistema elettorale? Lo deve fare lei, Mario, lo devono fare i partiti. Non ho detto che lo devo fare io, la mia colpa, io mi prendo le mie colpe, la mia colpa è che ho delegato qualcuno, se ho sbagliato nella delega, la colpa è mia. La colpa è sua, ma non so, la seguo a metà, cioè è un ragionamento ostellino, lei ha capito, cioè è colpa un po' dei cittadini che si sono non messi d'accordo, come ovviamente prendevo in giro, ironizzavo, però la colpa è dei cittadini che non ne sono stati educati, dice Ostellino, il nostro ascoltatore da Bologna, a decidere in maniera giusta, non so quale sia poi la maniera giusta per decidere. La maniera giusta c'è, cioè prendere atto che la nostra è una società corporativa. E quindi la frammentarietà politica nasce dal fatto che agiscono nella società civile un eccesso di corporazioni, ciascuna delle quali persegue i propri interessi e si affida e si appoggia alle forze politiche diverse, in modo da creare una frammentazione del quadro politico. Cioè noi dobbiamo prendere atto che il sistema non funziona, cioè non è questione che gli italiani non sappiano. No, ma infatti l'idea di dare la colpa è frutto di una... direbbe il vecchio partito comunista, di una deformazione della struttura, cioè della stessa società civile, che riflette una frammentazione di tipo corporativo che non consente al paese di avere governo. Ma poi lì c'è anche un peccato originale, che è questa riforma elettorale, che se non si fa, oggi si conclude l'11ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Sa, senatore Marcucci, io tengo il conto su Twitter da quando è partita la legislatura Letta, un po' ironizzando, questa è l'11ª settimana decisiva per la riforma elettorale, che si conclude, speriamo, nella 12ª, cioè la prossima. Senatore, ma ci dobbiamo credere che Renzi non parlerà più? Cosa che ieri si è un po' offeso, ci è rimasto male. Io mi auguro che non sia così, però detto questo, sono d'accordo sulla questione della legge elettorale, che dovrebbe tornare ad essere uno dei primi atti normativi che questo Parlamento, al quale questo Parlamento dovrebbe pensare. Ci sono degli oggettivi meccanismi, diciamo, della società italiana che portano alla frammentazione. C'è una legge elettorale che in realtà ne evidenzia tutta, diciamo, la criticità. Quindi la legge elettorale, questo è un appello che faccio anche a Letta, io l'ho anche detto, ho anche presentato una proposta di legge, quantomeno torniamo al Mattarellum, ma non è perfetto, è molto meglio. No. No, ma guardi, su questo il saggio Franco Clementi ieri a questi microfoni ha detto: io vi spiego tecnicamente come in 9 giorni, da un lunedì al martedì successivo, si può fare la riforma elettorale. Bastano 9 giorni, si convoca, ci ha spiegato tutto il meccanismo. Ma la verità è che non la vuole fare nessuno. La politica, con la P maiuscola, non la vuole fare, perché se una cosa si vuol fare, si può fare. Vi ringrazio, Piero Stellino del Corriere della Sera e il senatore Andrea Marcucci del Partito Democratico, che ci ha detto che oggi voterà in linea col partito e quindi la mozione di sfiducia non passerà. Noi, che dire, ci rinnoviamo a lunedì, siamo sempre qui, sarà l'ultima settimana per quel che mi riguarda, 24 mattino, a lunedì alle 6.30. QOA Lean Society Forum, 19-20 novembre, info leancenter.it. Vi ha presentato «24 mattino».